Focus Economia di Sebastiano Barisoni. A 7:11 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: torneremo sul DL semplificazioni licenziato salvo intese, e anche la parte che riguarda le opere infrastrutturali, quello che dovrebbe, ribattezzato Italia Veloce, 130 opere di cui alcune anche commissariate. Questa mattina era ospite commissariate nel senso che vi saranno dei commissari ad hoc per snellire la parte, diciamo, burocratica e soprattutto progettuale, e per arrivare velocemente ai cantieri. Dicevo, sono 36 opere commissariate, lo ricordavamo anche ieri, 130, su 130 opere definite prioritarie e strategiche per il paese. Come ha spiegato bene ieri Giorgio Santilli a questi microfoni, le opere commissariate non sono necessariamente le più importanti, sono quelle incagliate da più tempo e si ritiene che gli serva un commissario per portarle, diciamo, fuori dalla palude, mettiamola così. Ce ne sono 12 di carattere idrico, 15 di carattere ferroviario e 9 infrastrutture stradali. Perché torniamo a parlarne? Perché da un lato l'ANCE, l'Associazione dei Costruttori Italiani, ha detto che bisogna avere più coraggio, manca coraggio al DL semplificazioni, e soprattutto ha detto attenzione, visto che c'è la formula salvo intese, cerchiamo di mettere qualche modifica e aggiustamento. Però ne parliamo anche perché ieri siamo riusciti a affrontare il tema, diciamo, delle opere individuate come strategiche e quelle da commissariare, ma manca ancora capire come, che corpo prenderà il DL semplificazioni nel suo complesso. C'è il tema dell'abuso d'ufficio, dei limiti sull'abuso d'ufficio. Perché? Perché sappiamo che spesso il timore dell'abuso d'ufficio paralizza la burocrazia italiana e i dirigenti della pubblica amministrazione, e anche l'idea del danno erariale, di contenere appunto il danno erariale in capo al pubblico impiegato. Ma ne parleremo anche perché appunto è un DL semplificazioni che è rimasto, diciamo, in parte vuoto per la formula che ormai conosciamo fin troppo bene del salvo intese. E ascolteremo anche cosa ha detto appunto il ministro De Micheli questa mattina ai microfoni di Radio 24, anche in merito a un'altra vicenda che tratteremo in apertura, e mi riferisco al ponte Morandi. Abbiamo ascoltato e riascolteremo anche il premier Conte, mi sembra abbastanza chiaro il tema, e cioè il ponte viene consegnato a chi ha la concessione della rete autostradale. Ora, con tutto quello che poi uno può dire di Autostrade per l'Italia, ieri abbiamo letto, adesso ricorderemo anche le pesantissime accuse dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'ANAC, nei confronti di Autostrade per l'Italia, addirittura spesi solo 33.000 euro per la manutenzione del ponte Morandi. Ma dicevo, al di là di questo, se Autostrade per l'Italia gestisce ancora la rete, perché ce l'ha ancora in concessione, è chiaro come il sole che va dato a chi gestisce la rete. Non è che quel pezzo lì può essere gestito da un soggetto che gestisce solo il ponte. E io capisco che, visto la posizione dei 5 Stelle, di Crimi, loro possono anche dire no, ma ripeto, non è un problema in questo caso di approccio politico. Io non ho nessuna simpatia per Aspi, nello specifico, o per qualunque altro concessionario autostradale. Si va a vedere nel caso le mancanze, e mi sembra che ieri l'Autorità Nazionale Anticorruzione sia stata molto pesante. Però il problema è che non c'è nulla di cui discutere in questo momento. O tu riesci a revocare la concessione, ma anche lì attenzione, perché al di là delle sparate dell'ex ministro Toninelli non è così semplice, o se no il ponte va dato a chi ha ancora in mano la concessione della rete autostradale. tertium non datur, come dicevano i latini, ma terza possibilità non mi sembra che esista, al di là dei posizionamenti politici. Nel frattempo in Liguria abbiamo avuto anche oggi una simpatica coda di 14 chilometri, slitta di nuovo la riapertura della A7. È stata aperta intorno alle 8:30 la barriera di Genova Ovest verso Milano, resta chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest verso Genova. Il ministro Micheli questa mattina appunto a Radio 24 ha detto in 10 giorni i controlli termineranno. Comunque un'ampia pagina di carattere così infrastrutturale e sul DL semplificazioni, poi invece arriveremo, e anche sul punto appunto di Genova, e poi invece arriveremo agli studi diffusi oggi da Prometeia. Il recupero dei livelli di attività pre-Covid avverrà solo nel 2025. Io chiederò, ma senza polemica, è chiaro che il danno è enorme. La stima del PIL di ieri fatta dalla Commissione Europea, Francia, Italia e Spagna, tutto intorno al 10,6-11%, 19% di crollo. È altresì vero che le previsioni prevedono un PIL in recupero parziale l'anno prossimo del 6%. Però vorrei capire come mai una stima così negativa, perché parlare di un recupero di attività non prima del 2025 significa ipotizzare che al di là del 6% l'anno prossimo vi sarà una crescita molto lenta. E vorrei anche capire come mai c'è una stima di un recupero al di là dell'Italia complessivo dell'attività economica così lento. Il Covid non è, come sappiamo, la crisi non si è innescata per una bolla finanziaria né per un eccesso produttivo o dell'economia, una sovrapproduzione, né per tensioni di carattere commerciale, dazi, quant'altro. Si è innescata per un virus arrivato dalla Cina. Ora, è verissimo che molti paesi stanno vivendo ancora enormi difficoltà, però insomma, parlare di un recupero che ci metterà 5 anni rispetto ai livelli di febbraio 2020 mi sembra così, una stima particolarmente negativa. E di questo parleremo. I mercati finanziari oggi non danno grandi spunti: Parigi meno 1%, Francoforte meno 0,70%, Londra meno 0,40%, scusatemi, Milano meno 0,40%, Londra meno 0,47%. I titoli Snam più 2,70%, Enel più 1,70%, Interpump più 1,30%. L'1% lo guadagna Terna e anche Unipol. Fronte opposto, Banca Generali meno 3,5%, Steam Microelectronics meno 2,80%, Fiat meno 2,20% come Atlantia, Banco BPM meno 1,80%, Intesa San Paolo meno 1,5% come CNH e Buzzi Unicem. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Dunque, notizie di carattere internazionale. In America Latina sono superati 3 milioni di casi, al di là della vicenda di Bolsonaro. Più della metà riguardano il Brasile, dove si contano già 66.000 persone decedute. I decessi complessivamente in Sud America sono 140.000. E devo dire che purtroppo si è registrato un ulteriore record negli Stati Uniti ieri, e quindi nelle 24 ore precedenti, 60.200 casi, i dati sono da John Hopkins University, in 24 ore. E l'Università di Washington ha esteso le sue proiezioni su quante persone potrebbero morire di coronavirus entro il 1 novembre, 2 giorni prima delle elezioni negli Stati Uniti. Si potrebbe arrivare, sulla base dello scenario attuale, a 208.000 vittime. Invece, se il 95% della popolazione indossasse la mascherina in pubblico, il numero scenderebbe a 162.000. È una cifra comunque superiore a quella profetizzata da Trump. Ad ora i decessi negli Stati Uniti sono 131.000. Il dagli Stati Uniti all'Europa, la Gran Bretagna, la stima è del cancelliere dello scacchiere, quindi il ministro del tesoro inglese, e lui si chiama Rishi Sunak, ha stimato che l'economia britannica ha perso in due mesi il 25% del suo prodotto interno lordo. E ancora annunciato il governo di Boris Johnson un piano per il sostegno pubblico all'occupazione giovanile da 2 miliardi di sterline. Il piano complessivamente del governo vale 33 miliardi, un nuovo piano di aiuti pubblici a economia e occupazione. Devo dire che a proposito di piani, oggi è arrivato via libera dall'Unione Europea al piano italiano da 6 miliardi e 200 milioni di euro per sostenere le piccole imprese e gli autonomi. È il piano cosiddetto dei soldi a fondo perduto. Ricorderete, ne abbiamo parlato molte volte, era nel decreto, oddio, ho perso il conto dei decreti, era il decreto che doveva essere maggio, ristoro, rilancio Italia, forse è il DL rilancio. Comunque prevede che per chi ha perso più del 30% aprile 2020 rispetto al fatturato dell'aprile 2019, lo Stato intervenga fino a 400.000 euro con il 20% della differenza a fondo perduto, ma è netta, e quindi è più alto il valore se tu immagini di dover fare, che avresti dovuto fare quella cifra però lorda, quindi avresti dovuto fatturare molto di più, e dicevo il 20% che poi scende al 15%, che poi scende al 10% a seconda del livello del fatturato. Bruxelles ha dato via libera all'Italia sul piano da 6 miliardi e 200 milioni. Ripeto, mi segnalano molti imprenditori che quello, rientrando nel campo dell'Agenzia delle Entrate, è una procedura che sta arrivando molto velocemente, sicuramente più velocemente dei 600 euro dell'INPS o della cassa integrazione gestita dall'INPS, in buona parte salvata dall'anticipazione, dagli anticipi che hanno dato le imprese. Ancora, per quello che riguarda invece sempre le approvazioni di Bruxelles, via libera della Commissione Europea al maxi piano di aiuti della Germania da 500 miliardi di euro a sostegno delle imprese tedesche, si chiama Fondo per stabilizzare l'economia, e prevede garanzie per le aziende, prestiti e ricapitalizzazione, garanzie per 400 miliardi, prestiti e ricapitalizzazione per 100 miliardi. Angela Merkel oggi ha parlato e ha detto che l'Unione Europea ha bisogno di un accordo sul Recovery Fund. Era un punto stampa assieme al Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. L'obiettivo, ha detto la Merkel, resta l'intesa sul Recovery Fund entro l'estate. Si è parlato di questo chiaramente anche nell'incontro del Premier Giuseppe Conte con Sanchez, con il Premier spagnolo Pedro Sanchez. Conte ha detto il dramma Covid ha unito ancora di più Italia e Spagna, vi sarà poi un vertice intergovernativo Italia-Spagna entro l'anno. Conte ha detto con Sanchez c'è un'unità di intenti, ma non si parli di un fronte del sud, è una visione condivisa da 9 paesi, adesso siamo anche di più, e dobbiamo osare, non possiamo essere indulgenti, quindi ha detto Conte l'Italia deve finalizzare il pacchetto di risposte già entro la fine di questo mese. Non possiamo permetterci di indugiare, non possiamo permetterci di essere troppo prudenti, dobbiamo osare. E l'unico modo per avere una risposta è che sia europea, forte, nel comune interesse. Parliamo del futuro dell'Europa. Qui è in gioco il mercato unico. Immaginate cosa significherebbe non perseguire, non finalizzare una risposta forte, coordinata europea. Distruggeremmo il mercato unico, distruggeremmo le catene di valore europee, distruggeremmo quindi anche le nostre economie e tutta l'Europa sarebbe meno competitiva a livello mondiale. L'Europa deve reagire subito, unita, e deve tornare subito ad essere competitiva. Dobbiamo assolutamente quindi moltiplicare gli sforzi per finalizzare il pacchetto di risposta già entro la fine di questo mese. Oh. Ancora sul MES, oggi non torno sul MES, per carità, il ministro Gualtieri ha detto lo utilizzeremo se serve, non ci sono stigma, non c'è uno stigma per chi lo usa. Nel frattempo, visto che prima parlavo, adesso mi ha scritto un ascoltatore che dice sono arrivati i soldi a fondo perduto, 2000 euro, una piccola SRL in provincia di Verona che opera nel settore della vendita diretta, 17 giorni tra la richiesta inviata e i fondi nel conto corrente, e lo so. L'Agenzia delle Entrate lavora con una efficienza diversa rispetto all'INPS, non c'è niente da dire su questo. Poi l'INPS, non sto accusando i dipendenti dell'INPS che per carità si sono trovati travolti da un insieme di una mole enorme di pratiche, forse è stato sbagliato utilizzare l'INPS per i 600 euro e forse anche sulla cassa integrazione in deroga bisogna pensare a un altro meccanismo, non quella ordinaria che ripeto per due terzi hanno anticipato le imprese. Contento che invece stiano arrivando quelli a fondo perduto. Torniamo invece alle notizie in breve, perché a proposito di strumenti, le domande per i prestiti garantiti dallo Stato hanno superato quota 2.600.000 per un valore di 286 miliardi. Lo dico che mi sta scrivendo sulla Germania. La Germania ha messo 400 miliardi di garanzie statali, noi siamo già arrivati con le domande a 286, vedremo quale sarà il tetto finale, e di cui appunto sono 790 mila le richieste di garanzia per nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese. 790 mila sono le richieste di garanzia, mentre 2.600.000 le moratorie sui prestiti. Da questo punto di vista, come sempre, le domande di prestiti nella stragrande maggioranza sono per quelli fino a 30.000 euro garantiti al 100%, pari a su 790.000 690.000 domande per 3,8 miliardi. Le altre 100.000 riguardano invece i prestiti più alti, mi sta scrivendo un altro ascoltatore. Contributo di 2.000 euro arrivato in una settimana, è purtroppo relativo solo al mese di aprile. Il limite di quella misura che sta funzionando è che chi ha avuto un fatturato ad aprile per vari motivi, l'abbiamo spiegato molte volte, c'è chi fa accordi, contratti e poi li incassa mesi dopo, e quindi cioè, attenzione, perché molte imprese che lavorano soprattutto sui beni durevoli, quindi firmi contratti mesi prima, magari hanno incassato contratti di 2-3 mesi prima ad aprile, quindi non c'è una variazione del genere su aprile 2019, e adesso invece magari non stanno incassando, non stanno fatturando a maggio e a giugno. Detto questo, il meccanismo sta funzionando, almeno quello. Ancora il bonus vacanze, molti ci hanno segnalato che c'è una difficoltà a farlo accettare dagli alberghi, però attenzione, perché i bonus erogati sono 401.000 per un totale di 183 milioni di spese, lo ha annunciato il ministro Franceschini, e 12.600 persone hanno già usato il bonus in albergo. Il ministro Azzolina invece ha detto che ha fatto richiesta al Ministero dell'Economia e Finanze per oltre 80.000 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, e questa è una richiesta che è arrivata al MEF, mentre a conclusione delle procedure concorsuali avviate dal Ministero avremmo garantito, ha continuato l'Azzolina, l'immissione in ruolo di 78.000 docenti. Torno a sottolineare che a conclusione delle procedure concorsuali avviate dal Ministero avremo garantito l'immissione in ruolo di 78.000 docenti. È un grande risultato che ci consentirà di dare stabilità a un gran numero di docenti e di garantire la continuità didattica dell'insegnamento per i nostri studenti. Al fine di ampliare il bacino dei docenti aventi diritto all'assunzione in ruolo da concorso, abbiamo consentito ai docenti collocati nelle graduatorie del concorso 2016, attraverso l'apposita creazione di fasce aggiuntive alle graduatorie del concorso 2018, il cui decreto ministeriale è stato varato a fine giugno, di poter aspirare alla nomina in ruolo su base volontaria, anche in una regione diversa da quella dove abbiano svolto la procedura. Ci tengo a sottolinearlo, su base assolutamente volontaria. E poi l'Azzolina è a favore dei test sierologici sul personale docente, e mentre i presidi hanno scritto al governo auspicando che l'inizio della scuola non slitti per le elezioni. Io non so, il ministro Lamorgese doveva fare sapere se si trovavano anche altre soluzioni invece che le aule scolastiche per le elezioni regionali. Adesso apriamo la lunga pagina dei cantieri, è una pagina interminabile. Allora facciamo così: intanto i cantieri attuali, poi invece il DL semplificazioni con la parte Italia veloce, e poi la vicenda Ponte di Genova su, e quindi la concessione all'ASPI. Per quello che riguarda la 7, anche oggi, ieri 17 km, oggi 14, insomma non si riesce ad avere una situazione, non dico normale, diciamo decente. Botta e risposta tra ASPI e Ministero, questa mattina ospite il Ministro ai trasporti De Micheli con Simone Spezia e Maria Letella 24 mattina, e ha detto in 10 giorni i controlli termineranno. Noi abbiamo avuto un rapporto tra controllori, lo Stato e i concessionari, che per molti anni non è stato all'altezza della custodia del bene autostradale. Noi quando siamo arrivati siamo stati i primi, dopo decenni, a impostare un lavoro sulla sicurezza con criteri omogenei per tutti, non solo per Autostrade per l'Italia, cioè le linee guida sulle gallerie, sulla sicurezza delle gallerie e dei viadotti. Ovvio, noi appena abbiamo avuto la prima mappatura, la situazione, da gennaio abbiamo chiesto ad Autostrade per l'Italia di fare gli interventi. Ad oggi formalmente c'era in vigore la circolare del 67 che imponeva una modalità di controllo a vista. Noi abbiamo detto fin dall'inizio che saremmo addivenuti, per noi andava bene anche un controllo con le nuove tecnologie, per semplificare e accelerare i controlli possiamo utilizzare nuove tecnologie, georadar. Noi nei prossimi 10 giorni terminiamo tutti i controlli e la programmazione degli interventi derivanti dal risultato dei controlli potrà essere fatta da qui fino alla fine dell'anno, come era nelle nostre aspettative. E invece di parere opposto il governatore della regione Liguria Toti, che dice oggi un nuovo delirio con 14 km di coda in A7 e 10 km in A12 a causa di un'ispezione prolungata, e il MIT non dice, il Ministero dei Trasporti non dice una parola. Domani invece la Lega manifesterà davanti a Montecitorio con i parlamentari liguri, perché ha detto Salvini manifesterà contro un governo che sta tenendo sotto sequestro una regione. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo adesso su meteo e pubblicità, e poi iniziamo con grandi opere, ASPI e quant'altro. Guardate su, lo dico prima di iniziare le polemiche di alcuni ascoltatori, che in questi anni nessuno abbia chiesto ad Autostrade per l'Italia maggiore corrispondenza tra gli aumenti dei pedaggi, i ricavi che la società stava facendo e il mantenimento della rete autostradale. È fuori discussione, cioè che il modello vecchio non funzionasse. Poi ASPI può dire quello che vuole, ma è chiaro che le manca il modello vecchio. Il modello vecchio era che sostanzialmente lo Stato si disinteressava e prendeva per vero quello che veniva detto dal concessionario. Poi uno mi può dire, ma un concessionario ha l'obbligo di... Ho capito, ma i controlli esistono proprio se per caso qualcuno non seguisse l'obbligo come avrebbe dovuto fare. Per cui dobbiamo modificare questo rapporto. Poi, nello specifico, se ancora quello sta gestendo Autostrade per l'Italia, sta gestendo la rete autostradale, tu rifai il ponte, è chiaro che il concessionario si prende anche quel pezzetto lì. Ma a mio avviso, al di là di tanti ideologismi, va rivisto il modo in cui lo Stato, se dà una concessione, controlla come poi questa concessione viene utilizzata. E per inciso riguarda anche le concessioni balneari, va bene rinviare la messa a gara, però fino al 2033 forse troppa grazia Sant'Antonio con quello che pagano alcuni stabilimenti balneari, cioè niente l'utilizzo del suolo pubblico. Comunque andiamo in meteo e pubblicità. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Ma io credo che nei prossimi 2 o 3 giorni, già ieri abbiamo lavorato nonostante, diciamo così, un po' di stanchezza a causa della nottataccia lunghissima. Abbiamo lavorato già ieri, secondo me ci sono le condizioni per arrivare alla chiusura del salvo intesa nel giro di pochi giorni. Poi ovviamente il Presidente è fuori ed è bene che ci sia anche lui presente quando si completerà questo tipo di lavoro. Problemi politici oggettivamente, durante il Consiglio dei Ministri il clima era veramente positivo, tenete conto che il punto di partenza su alcuni degli argomenti presenti in questo decreto, parlo dei miei ma potrei parlare anche di altri capitoli di questo decreto semplificazioni, già solo qualche mese fa sembravano punti di partenza inconciliabili. Ricordo le polemiche sui giornali, come faranno, sulle infrastrutture, sulle gare, sulle opere. Io credo che con tutti i limiti di questo, quello che vi sto per dire, una sintesi piuttosto alta e abbastanza semplificata, non cervellotica, ecco, il mio timore era quello di arrivare a quei compromessi un po' cervellotici, no? Io ce l'avevo nei mesi scorsi questo timore, invece mi sembra che con tutti i limiti, perché la perfezione la lascio agli altri, io non ce l'ho, sembra che compromesso abbastanza semplice, ecco. E così questa mattina sempre Ministro De Micheli, ringrazio per averci aggiunto in collegamento a proposito per parlare del DL semplificazioni, ma anche della parte che riguarda il cosiddetto Italia veloce. Da un lato una voce, una firma che conoscete bene, Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Gianni, buonasera. Buonasera a voi. E grazie anche al vicepresidente dell'ANCE e quindi l'Associazione Nazionale dei Costruttori dell'Edilizia, Edoardo Bianchi, buonasera anche a lei. Buonasera a tutti. Dunque, Gianni, poi arriviamo adesso alla parte specifica del ANCE. Se ho ben capito, il DL semplificazioni, che appunto, come dice il nome, doveva rendere meno una corsa a ostacoli, non solo i cantieri, ma in generale l'attività della pubblica amministrazione. Oggi abbiamo scoperto, poi ve lo ridirò, che servono l'ANCE stesso 16 anni per opere oltre i 100 milioni, 16 anni per realizzare opere sopra i 100 milioni. Se ho ben capito, però, il salvo intesa, cioè la mancata intesa, è ancora sulla responsabilità, diciamo, dei dipendenti pubblici. Si sta cercando di arrivare, di evitare il cosiddetto sciopero delle firme, cioè che il dipendente pubblico non firma perché ha paura di essere poi accusato di dolo o danno erariale e quant'altro. E anche sulla parte degli appalti. Gianni? Sì, infatti il salvo intese è perché le intese non ci sono su temi di grande rilievo, diciamo così, non su dettagli tecnici secondari. In particolare il tema della responsabilità erariale, lì si prevede in sintesi che la responsabilità erariale scatti solo per il dolo e non per la colpa grave, quindi per una fattispecie, diciamo, più facilmente e oggettivamente individuabile. Poi c'è il tema dell'abuso d'ufficio, della riformulazione della norma sull'abuso d'ufficio che divide la maggioranza, ma anche su alcuni aspetti importanti delle procedure di appalto ci sono ancora visioni distanti fra i 5 Stelle da un lato e il Partito Democratico dall'altro. Sui commissari ci sono visioni distanti, ricordiamoci che i commissari per le opere erano già previsti dallo sblocca cantieri del 2019, perché noi di sblocca cantieri ne facciamo uno all'anno, più o meno all'inizio dell'estate, insomma, quindi era già previsto l'anno scorso. I commissari non sono stati fatti sulla base delle regole dell'anno scorso, perché c'era un distinguo politico molto rilevante all'interno della nuova maggioranza arrivata nel frattempo, e questi distinguo continuano ad esserci. Ecco Gianni, puoi ricordarci le posizioni, visto che appunto sia sulle gare, la soglia che, diciamo, delle gare senza appalto 150.000 euro, poi invece tra 150 e 300.000 c'è una gara ristretta a 5 operatori che salgono a 10 per le gare d'appalto tra 350.000 e 1 milione di euro, e a 15, cioè il massimo di soggetti a cui tu puoi presentare la gara, a 15, dicevo, tra 1 miliardo di euro e la soglia fino a 1 milione di euro, scusami, e i 5,2 milioni di euro, che è la soglia comunitaria. Da lì in poi invece devi fare la gara europea, è una disposizione appunto dell'Unione Europea. Però le posizioni di PD e 5 Stelle sia sulle gare che sul danno erariale e la responsabilità poi dei pubblici impiegati, prego. Ma sì, paradossalmente sul tema delle gare i 5 Stelle erano addirittura, in particolar modo più che i 5 Stelle, poi Palazzo Chigi in particolare, erano per diciamo così liberare tutto dall'obbligo di gara anche sopra i 5,2 milioni di euro, che sono la soglia comunitaria, la soglia appunto, certo, che ricordavi. Per la gara europea lì il PD si è opposto, il PD è il padre del codice degli appalti attuale, ricordiamocelo, con l'allora ministro Delrio, ma si è opposto anche con il ministro degli affari europei Amendola, che ha ricordato che l'Unione Europea ci avrebbe fatto dritta una procedura di infrazione sul punto. La posizione invece sulla responsabilità erariale e sull'abuso d'ufficio è più incrociata, c'è addirittura Italia Viva che chiede di cancellare le norme che modificano la responsabilità erariale e l'abuso d'ufficio, addirittura con un'accusa che siano fatte ad personam per le sindache di Roma e di Torino, che ricordiamo sono dei 5 Stelle. Anche qui, un po' paradossalmente rispetto alla loro storia, i 5 Stelle invece sono per la posizione più, diciamo, estrema. No, ma infatti va detto per far capire anche gli ascoltatori che i 5 Stelle, che storicamente avevano una posizione, diciamo così, molto scettica sulle opere, sulle grandi opere e sulle infrastrutture, hanno una posizione molto più, come si può dire, liberista, molto più così accomodante rispetto sia alle soglie dove la gara o non c'è o e quindi vai all'affidamento diretto o è ristretta, sia anche alle responsabilità del pubblico funzionario, come danno erariale da un lato e abuso d'ufficio dall'altro. Gianni, resta con noi perché ho il traffico e poi vorrei sentire però anche da Edoardo Bianchi che cosa vi piace del DL semplificazioni e della parte delle 130 opere definite prioritarie e di cui alcune anche commissariate, perché sono quelle che sono più incagliate, sono 36 quelle commissariate, e che cosa invece vorreste vedere che non c'è dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, Edoardo Bianchi, vicepresidente del Lancio, cosa vi piace del DL semplificazione della parte Italia Veloce e cosa invece vi convince meno? Beh, ci piace se veramente rimane fino alla fine questa nuova riconfigurazione della responsabilità erariale e del reato d'abuso d'ufficio. Perché? Perché pur non riguardando direttamente noi come imprese, ma se non si sblocca nella pubblica amministrazione questa paura della firma, è inutile fare revisioni, riforme e messa a disposizione di risorse. Quindi questi sono i due aspetti principali che devono necessariamente essere portati fino alla stazione. Per il resto non abbiamo grandi motivi di soddisfazione, perché più che una semplificazione questa è una deregulation completa. Stranamente ci si accanisce sulle procedure di gara quando in realtà tutti la sento male, ci si accanisce sulle procedure di gara quando in realtà tutti gli studi parlamentari di ogni tipo dimostrano che il vero problema sono i tempi di attraversamento, ossia quei tempi necessari alle autorizzazioni per far decollare i progetti. Però evidentemente c'è una deregulation completa, lei prima lo ricordava sotto soglia, ma soprattutto sopra soglia, cioè sopra i 5,3 milioni, fino a qualche tempo fa si parlava di opere di rilevanza nazionale. Oggi c'è una serie di opere che sono 130, però ne partono solo 30, ne partono 40, ma sarebbero, se partissero quelle opere non ci sarebbe più una risorsa per i lavori di manutenzione, per i lavori di messa in sicurezza del territorio. Beh, diciamo che c'è abbastanza confusione e l'ultima cosa di cui sentivamo la necessità era di intervenire sui sistemi di gara. Si doveva intervenire a monte, evidentemente non c'è stata la volontà o non c'era la possibilità di agire, ma così noi come ANCE lo stiamo denunciando da una decina di giorni, rischiamo che nei prossimi mesi ne vedremo delle brutte, perché c'è un eccesso di discrezionalità data alla pubblica amministrazione e speriamo che venga utilizzata in maniera positiva, insomma, ma allora, abbiamo forti perplessità. Sì, ieri Giorgio Santilli faceva notare che degli anni che servono per realizzare un'opera, uno più o meno è quello relativo alla gara, e la parte, come diciamo, più lunga è quella delle varie autorizzazioni da richiedersi. In questo, Gianni Trovati, non è che il decreto semplificazioni, almeno allo stato dell'arte, semplifichi molto, cioè vengono snellite le gare, ripeto, nelle varie soglie, e anche quelle europee sopra i 5,2 milioni di valore devono essere aggiudicate in 6 mesi. Ci sarà minor paura, immagino, quindi lo sciopero della firma da parte del pubblico impiego, ma tutte le varie procedure e fasi di autorizzazione lì mi sembra che si semplifichi poco. Quasi non se ne occupa, almeno le bozze che abbiamo visto noi, ma perché evidentemente noi andiamo per innamoramenti, no? Ci innamoriamo di un problema e siamo monogami da questo punto di vista, per cui l'anno scorso anche monotoni delle volte. L'anno scorso ci eravamo innamorati giustamente del problema della progettazione, della deficit di capacità progettuale della PA, avevamo pensato a una grossa centrale di progettazione presso il Ministero dell'Economia, eccetera, abbiamo fatto una norma che la prevedeva e poi non l'abbiamo attuata, perché come siamo facili agli innamoramenti, siamo anche facili ai disamoramenti. Adesso ci siamo occupati in maniera quasi univoca, quasi totalizzante del tema delle gare. Vedremo come finirà il testo, più verosimilmente la prossima settimana rispetto a questa in Gazzetta Ufficiale, insomma, ma lo vedremo. Vero è che i blocchi, i colli di bottiglia, eccetera, sono molto spesso prima della gara, quindi tu alla gara arrivi già molto affannato, diciamo così, dal punto di vista dei tempi, e su questo punto. Di questo punto il decreto semplificazione nelle sue 100 pagine non si occupa. Bianchi, in 40 secondi mi dice che cosa vorreste vedere, visto che è ancora un salvo intese e qualcosa modificabile, introdotto? Ma intanto c'è un problema di risorse. Questo è il quarto decreto che adotta misure difensive, ci sono altri 20 miliardi in deficit, ma siamo sicuri che tutte queste risorse ci siano? Perché noi abbiamo la sensazione che ci stanno spingendo a parlare di regole in maniera maniacale, ma poi in realtà le risorse non ci sono, quindi a questo punto sarebbe sufficiente, già per far ripartire il paese, sì, che venissero aggiudicati i lavori per i quali sono stati bandite procedure di gara negli ultimi 2 anni e di cui le stazioni appaltanti non riescono a completare quelle procedure. Parliamo di bandi di gara che sono stati pubblicati in Gazzetta senza nessuna scorciatoia, senza nessuna eccezione. Noi però pensiamo al futuro. No, allora questo mi interessa molto. Bianchi, resti con noi, perché dopo il GR24 mi racconta anche quali sono questi bandi di gara, perché io adoro, o meglio, odio l'ufficio complicazioni pratiche semplici. Se ci sono dei bandi di gara che possono partire subito, al di là dell'elenco che già conoscevamo, per carità, l'alta velocità, io sono pazzo, innamorato pazzo dell'alta velocità, però devono partire dopo il GR24. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e siamo ancora in collegamento col vicepresidente dell'ANCE, poi adesso passiamo al ponte di Genova, Edoardo Bianchi, perché lei c'ha, prima dell'interruzione del GR24, ci stava dicendo ci sono già delle opere che senza aspettare il DL semplificazioni e la parte Italia veloce possono essere subito riattivate? Sì, ci sono delle opere, addirittura delle gare, le stazioni appaltanti a livello di ANAS, a livello di enti locali, hanno bandito nel corso degli ultimi anni, negli ultimi 12-24 mesi, una serie di gare. Non tutte le hanno aggiudicate, poi è intervenuto il lockdown con il Covid, però tutte quelle procedure di gara che hanno ancora in pancia, perché non sono arrivate alla definizione dell'aggiudicatario, perché non partiamo da quelle? Da quelle noi stiamo sempre a pensare quello che deve succedere da domani in avanti e comunque con deroghe impietose. Ma non potremmo intanto aggiudicare, far sì che si aggiudichino quei lavori che sono stati banditi, pubblicati, esperite le gare nel rispetto di quelle che sono le previsioni del codice degli appalti? Cioè a me sembrerebbe il minimo. Aggiudichiamo quello che già c'è e nel frattempo pensiamo a far decollare nuovi cantieri, nuove opere. Lei ha un elenco di queste opere, di queste gare? Ma guardi, una previsione in questo decreto semplificazioni c'è. Speriamo che si dà un tempo più o meno perentorio alle stazioni appaltanti di aggiudicare tutto quello che hanno in pancia. Speriamo che questo provvedimento non salti e che non sorgano dei problemi nell'applicazione quotidiana, perché già questo permetterebbe a diversi cantieri di partire. Io penso che, dico un numero, se lei mi forza a dire il numero, io penso che l'ANAS abbia tranquillamente una ventina di gare, ma di importo consistente, 30-40 milioni, che rispetto alle quali negli ultimi 12-18 mesi è in corso una valutazione delle offerte, un attrezzamento da parte delle stazioni appaltanti. Ma perché non dare non concentrarci intanto su quelle, lavorare a capofitto su quelle in maniera tale che da qui a settembre possano aprire i cantieri? Perché le gare già sono state esperite, bisogna solo trovare l'aggiudicatario. Chiarissimo. Grazie anche al vicepresidente dell'ANCI. Io spero appunto che non cambi naturalmente il decreto e che si vada rapidamente anche a implementare quello che prevede, cioè un tempo massimo per aggiudicare le gare che sono già state bandite in questo caso dall'ANAS. A me, per quello che riguarda le altre, qualcuno voleva di nuovo l'elenco, l'abbiamo fatto ieri, delle opere, vanno tutte bene, non sono nemmeno nuove, dall'alta velocità anche sulla Napoli-Bari, Roma-Pescara e via dicendo, ma anche sulla Venezia, sulla Brescia-Venezia, poi la Venezia-Trieste rafforzata, non diventerà alta velocità. Chiusura dell'anello ferroviario di Roma, l'alta velocità appunto Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania-Messina, Pescara-Roma, Pescara-Bari, Venezia-Trieste, tutte bene, fatele il prima possibile e con chiaramente i controlli, ma non è che non si possano, i controlli debbano bloccare le opere o non si fanno le opere perché c'è paura che qualcuno becchi la tangente o sia accusabile di corruzione. Grazie comunque anche al vicepresidente dell'ANCE. Restiamo sul tema delle opere, ma con un significato completamente diverso. Perché lo dico? Perché qui siamo di fronte a un'opera realizzata in tempi record, mi riferisco al ponte di Genova, che è pronto a essere consegnato, se ben ricordo, il primo d'agosto, e il tema era chi lo gestirà. Allora, ieri abbiamo raccontato tutti i rilievi dell'ANAC nei confronti della gestione di Autostrade per l'Italia, della rete autostradale, anche sul fronte Genova, perché la manutenzione è stata definita insufficiente, che non c'è mai stata una piena collaborazione con Autostrade per l'Italia, che Autostrade per l'Italia sul ponte Genova ha avuto poca trasparenza, che comunque il dato sulla manutenzione era molto basso, solo il 2,2% di quanto previsto nei piani finanziari, e ha definito le concessioni autostradali, quindi non solo Autostrade per l'Italia, una sorta di oligopolio, e serve maggior coordinamento, ha chiesto l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, sul controllo nelle concessioni. Ma questo è il rilievo, e non ho motivo per dubitarne, nei confronti di Autostrade per l'Italia. A me sembra che invece la polemica su chi debba gestire il ponte, finché tu non trovi una soluzione, revoca, nuovo accordo con ASPI, è una polemica inutile, lo gestisce chi ha in questo momento la gestione di quel pezzo di rete autostradale. Cosa facciamo? Mettiamo un ponte gestito da solo rispetto al resto della rete, e quindi Autostrade per l'Italia. la lettera al ministro, la lettera, scusate, al sindaco Bucci l'ho firmata io. Al sindaco Bucci ho mandato una lettera perché avevamo avuto una riunione qualche giorno fa nella quale lui aveva chiesto e forse aveva anche scritto quali dovessero essere i percorsi prima dell'inaugurazione del ponte, e io gli ho confermato tutta la procedura di collaudo, della consegna e ovviamente anche quella della gestione post inaugurazione, che è appunto una gestione che va al concessionario. Ne abbiamo scritto questo. Ovviamente in questa fase il concessionario ASPI, e poi come sapete tutti questa vicenda è soggetta, diciamo così, ad un'ultima fase dopo questa faticosissima, questo faticosissimo percorso che per me dura da 9 mesi, da quando sono ministro, sulla vicenda della revoca e sulla vicenda degli inadempimenti delle manutenzioni. Quindi in questa fase questa è l'opzione, la soluzione che io stessa ho firmato e inviato al sindaco. Per quanto riguarda la situazione del Ponte Morandi, io sono stato molto chiaro, ho detto che questo dossier va chiuso. Quando lei parla di pessima figura del governo, vi invito semplicemente a valutare il comportamento del governo al termine della procedura, e ho già detto ai ministri più direttamente competenti che mi aspetto di poter chiudere questo dossier, vorrei ad horas, ma comunque a fine settimana, non vorrei andare oltre. E purtroppo la situazione è paradossale, infatti non solo è paradossale, rischia di diventare assurda. Cioè, fino a quando il concessionario è Autostrade, è evidente che il ponte non può che automaticamente essere nella concessione di Autostrade. Ecco perché bisogna affrettarsi a chiudere questa procedura. Quando la chiuderemo, spero a questo punto nel volgere di qualche giorno, e i ministri sanno che c'è tutta la fretta di tutto il governo, di tutta una comunità nazionale, dobbiamo evitare una situazione paradossale, dobbiamo evitare una situazione assurda, dobbiamo chiarire questo passaggio. La linea nostra non cambia di un centimetro. Il ponte non deve essere dato ai Benetton, va chiuso prima, la trattativa va chiusa semplicemente prima, e il PD ci deve dare una mano, cioè il PD non deve fare come Salvini. Salvini si è nascosto. Quando abbiamo fatto tutte le riunioni per decidere nel contenuto di revocare Benetton, non partecipò mai e non ci permise quindi di avere i voti. Serve una legge che passa in Parlamento, e lui non ce lo permise. Il PD facesse questo, dicesse qualche cosa, chiudiamo prima dell'inaugurazione, questa è la linea. Allora, abbiamo sentito nell'ordine il ministro De Micheli questa mattina ospite 24 Mattino, poi il presidente del Consiglio Conte e l'ex ministro Toninelli. Tutto il mondo dei 5 Stelle è netto su questo. Di Maio ha detto no, gestione Benetton, l'ha detto anche la Taverna, non si discute. Crimi, il capo politico dei 5 Stelle, non permetteremo un ritorno del Benetton. Ma mi sembra, e giro la domanda a Raul De Forcade in collegamento con noi da Genova. Buonasera Raul. Buonasera a tutti, ciao Sebastiano. Mi sembra che la questione sia, come dice Conte, paradossale, nel senso che o tu come governo e con la legge riesci a trovare una soluzione su chi deve gestire non il ponte, la rete autostradale, quindi quella ligure, voi concentrate sulla parte ligure, ma insomma chi gestisce le autostrade. Al momento però, siccome è ancora Autostrade per l'Italia, il ponte va da loro, o entro il primo d'agosto tu trovi una soluzione, se no è ovvio che in pro tempore, come abbiamo sentito dire anche da chi rappresenta le vittime, le 43 vittime del ponte Morandi, pro tempore deve gestire Autostrade per l'Italia. Vorrei capire se ho capito bene, scusami gioco di parole, dopo il traffico ti chiedo un minuto di pazienza. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Allora Raul, è così, cioè finché non trova il governo una soluzione su chi e come deve gestire le autostrade attualmente in concessione Autostrade per l'Italia, magari anche solo quelle liguri, a me sembra che uno può girarsi quanto vuole, ma mi sembra naturale che almeno pro tempore lo gestisca il gestore che ha la rete in mano, o no? Ho capito male? È assolutamente così. Il punto qui è che anche se si volesse a questo punto cambiare il gestore questo istante, domani, comunque se la procedura non consentirebbe di fare altro che comunque per arrivare all'apertura del ponte con Autostrade per l'Italia, gestore di quel tratto, anche perché la procedura per cambiarla è molto complicata, apre la strada a contenziosi, certo. A contenziosi altissimi, anche se il governo ha con una serie di provvedimenti contenuto in passato, ha già fatto delle norme per contenere le possibili penali da 20 rotti miliardi fino a 6, insomma, a ridurle, eccetera, eccetera. Anche con tutte queste cose si aprirebbe la strada a un contenzioso estremamente complicato ed estremamente forse costoso per lo Stato italiano, molto probabilmente. Quindi è difficile poter pensare che se si vuole aprire il ponte, è cosa che si spera si voglia fare, e se non si vuole lasciarlo invece come un'opera a memoria di quello che è successo, ma inutilizzabile, non si dia ad Autostrade per l'Italia. Pro tempore, certamente, se si vuole usare questa formula, ma insomma bisogna assolutamente che infatti, Autostrade. Allora, ripeto, il giudizio sulla gestione di questi anni di Autostrade per l'Italia l'ho dato molte volte. E ieri, ben più importante del mio, è stato quello dell'ANAC, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Però poi è inutile, tra virgolette, autoimpiccarsi alle posizioni ideologiche, Maia e Benetton, se non sei riuscito ad arrivare a una quadratura del cerchio adesso, perché come tu dicevi, attenzione alle penali, cioè io da cittadino non voglio regalare, tra virgolette, altri soldi ai Benetton, se questo poi è il tema, no? Perché magari fai le cose fatte male, allora troviamo una soluzione pragmatica, non ideologica. Per esempio, si era discusso la parte delle autostrade solo liguri, oppure una revisione dei piani tariffari. Insomma, a me basta che vi sia una strada pragmatica, ma è inutile continuare a dire mai ai Benetton, perché in questo modo, come tu ricordavi, non ci sono neanche i tempi per, anche se domani decidessi la revoca, per arrivare ai primi di agosto. Quindi è inutile fare dichiarazioni, perché il primo di agosto o tu quel ponte non lo consegni, e quindi lo guardiamo tutti, bellissima opera di Renzo Piano, di Fincantieri, di Salini in Pregilo, e lo guardiamo e basta, oppure lo consegna chi sta gestendo quel trattato stradale che si chiama ancora Autostrade per l'Italia. Ma mi interessava appunto, ho capito che è un cul-de-sac, ma in questo caso non puoi sperare di risolvere tutto in un mese, e non ci scandalizziamo se pro tempore dovesse gestirlo Autostrade per l'Italia. È più importante il risultato finale del rapporto governo con chi ha gestito e sta gestendo in concessione la parte della rete autostradale italiana. Grazie anche a Raul De Forcade, e andiamo adesso sull'ultima notizia di approfondimento di oggi. Mi riferisco, ieri abbiamo avuto tantissimi rapporti, Commissione Europea, Banca d'Italia, Istat, OCSE, sulla situazione economica. Oggi se n'è aggiunto un altro, mi riferisco al rapporto del Centro Studi Prometeia, ma la cosa che mi interessa di più è che secondo Prometeia i livelli pre-Covid del PIL italiano si otterranno solo nel 2025. Insomma, mi sembra una cifra, una data enorme nella sua lunghezza per un paese che è rimasto chiuso 3 mesi e che sta faticosamente cercando di e ritornare a una forma, diciamo così, di normalità. E Prometeia prevede un crollo del PIL del 10%, ieri la Commissione ha detto l'11%, ma insomma siamo tutti lì, Francia, Spagna, Italia, pochi decimali, sono d'accordo con Mario De Aglio, inutile ragionare di decimali quando non sappiamo ancora cosa succederà a novembre. Però è un rimbalzo del 6% nel 2021. Dicevo, la cosa che mi ha impressionato è leggere i livelli del PIL pre-Covid solo nel 2025. Stefania Tomasini, partner responsabile analisi e previsioni economiche di Prometeia, buonasera. Buonasera, ben trovati. Come mai il 2025? Prego. Perché come ricordava lei, dopo una caduta del 10,1%, che non è nemmeno una delle più pessimiste che girano, appunto, abbiamo una ripresa nel 21 del 6%, che anche questa è piuttosto in linea, anzi è forse nella forchetta delle previsioni ottimiste, e poi ancora nel 22 una crescita intorno al 2%, che se ricordiamo degli standard italiani è tanto. Già tanto, e crescite nel intorno all'1% negli anni successivi, e questo, ahimè, data appunto la profondità della recessione del 20, porta a quel risultato che lei citava, quindi di recupero dei livelli pre-crisi solo nel 25. Sui settori, che è un tema che mi interessa moltissimo, perché continua a dire che ogni famiglia in questo caso è triste a modo suo, a per modo citare suo. Tolstoi. Sì. Voi distinguete tra i settori, ieri per esempio vi era un dato sulla manifattura come maggiore dell'Istat, come maggiore capacità di resilienza, invece molte più preoccupazioni sul settore alberghiero e turistico. Beh, certamente questa crisi si porta dietro una caratteristica di asimmetria fortissima a moltissimi livelli, certamente tra settori produttivi, per cui abbiamo una caduta di oltre nell'ordine del 30% di tutti i servizi legati all'alloggio, alla ristorazione, la filiera del turismo, che nonostante l'ipotesi di una ripresa anche abbastanza vivace nel corso dell'estate, però devono scontare questi 4 mesi di chiusura e comunque il fatto che i turisti stranieri, lo stiamo vedendo, stanno tornando con molta lentezza. Una parte importante del turismo italiano, che è il turismo americano, il turismo orientale, non arriverà quest'anno o arriverà in misura assolutamente irrisoria, e questo quindi condizionerà pesantemente questa filiera. Altri invece avranno dei risultati meno negativi, però quando il PIL cade del 10% è difficile che non si porti dietro un po' tutto. Una cosa volevo capire, però questo PIL non è caduto per un eccesso produttivo, per una bolla finanziaria, per uno scontro commerciale, è crollato perché abbiamo chiuso e sta ritornando molto lentamente l'attività, abbiamo avuto il lockdown per via di un virus. Domanda: perché vi attendete un recupero così lento? Cioè, ripeto, non era una variabile economico-finanziaria. Se noi, se per caso, io mi auguro, non ci fosse nessuna seconda ondata e voglio dire non ci fossero altri strappi, perché un recupero così lento quando la chiusura era dovuta a motivi di carattere sanitario, cioè epidemiologico? Assolutamente ragione, infatti. Ma il problema è che comunque le conseguenze economiche sono importanti, proprio perché partendo da quei settori poi si trasmettono alle persone che lavorano, ai lavoratori che perdono il lavoro, che lo vedono pesantemente, vedono decurtato il loro reddito, per esempio al tutto il tema della caduta del commercio internazionale, che condiziona anche l'industria, che ha avuto dei lockdown tutto sommato più limitati rispetto ad altri settori, ma che sta condizionando la velocità della ripresa. La ripresa c'è, noi prevediamo un rimbalzo che, come dire, se le faccio vedere il grafico potrebbe quasi essere considerato V, ma ciò nonostante appunto c'è una componente che non può recuperare nel corso dell'anno. Noi con queste previsioni non stiamo ipotizzando per esempio focolai importanti in autunno, non stiamo ipotizzando ulteriori lockdown, stiamo ipotizzando che la ripresa si avvierà, che nel corso dell'inverno si troverà comunque una cura che permetterà poi dalla primavera di considerare chiusa, diciamo, la pandemia dal punto di vista sanitario, ma comunque che si porterà dietro delle conseguenze economiche che si fa fatica a smaltire. Qui c'è un tema importante che è legato alla difficoltà del nostro paese di reagire, e questo l'abbiamo visto durante i 10 anni che abbiamo alle spalle. E questo purtroppo ci condiziona. Ho capito, la ringrazio perché ho terminato il tempo, ma ho capito benissimo quello che poi, su cui poi torneremo, è anche l'effetto, appunto, uno poteva immaginare, attenzione, abbiamo chiuso per 3 mesi e poi riparte tutto lentamente. No, c'è un effetto purtroppo vizioso, a spirale, che poi va a amplificare anche l'effetto diretto, diciamo, del Covid e della chiusura stessa. Ma per oggi è veramente tutto, grazie anche a Stefania Tomasini, responsabile analisi e previsioni economiche di Prometeia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.